Figlio, se ti muovi a servire il Signore, prepara il tuo animo alla prova. Tieni pronto il tuo cuore, fatti coraggio. Non aver fretta nel tempo della sventura. Attaccati a Lui e non allontanartene, perché goda alla fine nell'abbondanza. Accetta tutto quello che s'abbatte su di te e nelle vicissitudini più umilianti sii paziente. Come l'oro si purifica nel fuoco, così gli eletti nella brace dell'afflizione. Confida in Lui, Egli ti aiuterà. Raddrizza le tue vie e spera in Lui. Quanti temete il Signore, attendete la sua misericordia. Non deviate per non cadere. Quanti temete il Signore, confidate in Lui, perché non vi mancherà la sua ricompensa. Quanti temete il Signore, sperate nei suoi beni, nella gioia duratura e nella sua misericordia. Considerate le generazioni passate ed osservate. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto confuso? Chi ha perseverato nel temerlo ed è stato abbandonato? Chi l'ha invocato e lui è rimasto sordo? Perché il Signore è pieno di compassione e di misericordia, perdona i peccati e salva nel tempo della tribolazione. Guai ai cuori timidi e alle mani rilassate, al peccatore che cammina su due sentieri. Guai al cuore meschino che non crede, perché non avrà protezione. Guai a voi che avete perduto la costanza. Che cosa farete nella visita del Signore? Quanti temono il Signore non diffidano delle sue parole, e quanti lo amano praticano le sue vie. Quanti temono il Signore vogliono piacergli, e quanti lo amano osservano la sua legge. Quanti temono il Signore tengono pronto il loro cuore e si umiliano al suo cospetto. Cadiamo nelle mani del Signore e non nelle mani degli uomini, perché come è la sua grandezza, così è la sua misericordia.